9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 10 dicembre. Il tema di cui ci occuperemo oggi, chiedo scusa ancora una volta per la mia voce incimurrita, è il ritorno dell'Italia al nucleare. Lo faremo in particolare, non tanto per riaprire il dibattito in termini generali, vedrete che poi è un sottocapitolo molto strettamente collegato alla trasmissione che abbiamo fatto lunedì in occasione dell'apertura del vertice di Copenaghen, perché uno dei punti forti che ha indotto l'Italia e su cui si fonda il ragionamento di tornare all'energia atomica dopo 22 anni di stop del referendum in vista di produrci il 25% del fabbisogno energetico elettrico nazionale, è proprio il fatto che la produzione attraverso l'atomo è quella con meno emissioni di CO2, quindi è profondamente connessa ai temi di cui si parla a Copenaghen. Ma detto tutto questo, lo facciamo con una scelta precisa, perché ieri il Corriere della Sera, lo avete sicuramente notato in prima pagina, e poi anche La Stampa e molti altri quotidiani italiani, hanno rilanciato con un certo allarmismo, se mi passate il termine, che non significa giudicare impropriamente il lavoro di direttori e colleghi di altre testate, però il fatto da cui si partiva era la pubblicazione da parte di un partito, i Verdi, la cui natura per così dire intrinseca è quella di essere stati tra i promotori del referendum contro il nucleare e che restano legittimamente impegnati contro questa scelta, e un dossier che loro hanno passato alla Stampa in cui si dicevano certi dell'individuazione già avvenuta delle centrali in cui far ripartire l'atomo in Italia. Infatti il titolo della Stampa era il più esplicito in questo: i Verdi, virgolette, con la lista dei siti per nucleare. Corriere della Sera, prima centrale nucleare al nord, il dossier porta alla regione Veneto l'ipotesi di realizzare un sito nell'area del Polesine vicino a Chioggia. Naturalmente, qual è il sottinteso di questa notizia che ha avuto ampio risalto e che a mio modesta opinione rischia un po' di falsare tutta la ripresa del dibattito sul nucleare in Italia? Il sottinteso è che al di là di quello che si è detto nel disegno di legge, nella legge sviluppo approvata la scorsa estate, che è quella che predispone tutte le procedure da mettere ora in atto per la ripresa in tempi rapidi e soprattutto certi del nucleare nel nostro paese, uno dei punti che viene disciplinato dalla legge sviluppo, oltre a quello della creazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, e bisogna sceglierla proprio in queste settimane, oltre all'attribuzione ai decreti legislativi con cui il ministro Scajola dovrà per esempio individuare il tipo di tecnologia delle centrali nucleari su cui punteremo nel nostro paese, uno dei punti precisi riguarda proprio l'individuazione dei siti. Invece l'accusa da cui ieri i quotidiani sono ripartiti è quella che i siti siano già stati decisi. Da chi? Dalle improprie lobby dei produttori? Il sottinteso è questo. Ecco, mia modesta opinione, fine di questa breve introduzione odierna, perché se entrassi nei numeri del nucleare farei tutta la trasmissione da solo, ecco, il modesto appello che lanciamo, lo facciamo da Radio 24, condividendolo col Sole, è che siamo tutti, anche noi giornalisti, non solo i protagonisti del confronto politico, siamo un po' memori di quello che è capitato 22 anni fa. Se riprendiamo il tema nucleare ricalcando il copione dell'emotività e dell'allarmismo che ci ha indotto a quello che si può considerare, non pretendo di parlare a nome di una maggioranza, a nome di tutti, però insomma si può considerare un errore che gli altri grandi paesi non hanno compiuto, quello di fermarsi e smantellare il nucleare, ripeto, gli altri paesi non l'hanno compiuto, ecco, allora evitiamo l'allarmismo, perché è una trappola che falsa i risultati di ogni tipo di confronto. Le grandi stragi pubbliche da impianti nucleari che andavano in incidenti sempre più gravi non sono avvenute in questi 22 anni, anche se è vero, ne parleremo anche oggi, che il bilancio per esempio di Chernobyl a 23 anni di distanza è un bilancio che resta apertissimo, perché se le cifre ufficiali più strette sono di 65 vittime e di 3-4 mila vittime secondarie per le malattie insorte nell'area più direttamente colpita, c'è chi invece stima in 55.000 i morti di Chernobyl, e qui siamo come sempre alla mancanza oramai di uno strumento quantitativo condiviso dei fenomeni nel nostro mondo. Però insomma, diciamo, la realtà dei grandi paesi è che i grandi paesi che hanno scelto il nucleare con forza, come gli Stati Uniti, 109 centrali aperte, come la Francia, 59 centrali in esercizio, come il Giappone, più di 50 centrali in esercizio, vanno avanti su questo, e gli Stati Uniti, che sono reduci da alcuni decenni in cui non si realizzavano nuovi impianti, hanno riaperto il filone. Lo stesso ha fatto la Gran Bretagna. I paesi europei che avevano scelto di darsi una deadline per non sostituire le centrali sarebbero in prospettiva entrate in dismissione, invece riaprono il discorso, e questo riguarda naturalmente la Germania, riguarda la Svezia. Ci sono paesi europei come la Finlandia che invece sono in testa, sia pure problematicamente, come vedremo, alla realizzazione di reattori di terza generazione con tecnologia francese, realizzati da Areva. Ecco, questa è la realtà del mondo circostante, e soprattutto la realtà del nucleare è una realtà in cui costi di realizzazione degli impianti altissimi, sì, costi di gestione molto più bassi, invece, anche a paragone delle altre tecnologie e di altre produzione di energia a seconda di altro tipo di materiale piuttosto che a quello fissile, anche perché il costo di gestione si abbassa, perché la centrale nucleare produce grande quantità di energia elettrica in maniera continuativa, a differenza naturalmente di quanto possa fare una rinnovabile come l'eolico e il fotovoltaico. In questo bilancio di costi diversi ovviamente impatta la previsione nel medio-lungo periodo delle fonti fossili, del petrolio e così via, che può cambiare significativamente gli scenari nel medio-lungo periodo. Però un punto è sicuro: tra coloro, anche i più critici, che sono d'accordo nel rilancio del nucleare, ci si arrende di fronte al fatto che l'emissione di CO2, cioè il punto fondamentale dell'agenda internazionale, Copenaghen, ma non solo Copenaghen, visti anche gli obblighi che l'Italia deve adempiere per la riduzione 20-20-20 rispetto ai livelli del 90 a livello europeo, certo, il nucleare, in un mix più equilibrato e meno dipendente dall'estero, contribuisce più potentemente di qualunque altra fonte di energia, o quasi, rispetto alla continuatività e alla quantità della produzione di energia elettrica che può garantire, alla riduzione di emissione del CO2. Scenario che spero condiviso fino a questo momento. Per quello che ho detto, presento gli ospiti di giornata e mi taccio da questo momento in avanti. Abbiamo con noi in questa prima parte della trasmissione Francesco De Falco, che è l'amministratore delegato di Sviluppo Nucleare Italia, cioè la joint venture tra Enel e EDF, che avrà un ruolo fondamentale in questo ritorno dell'Italia al nucleare. Buongiorno, dottor De Falco. Buongiorno, dottor Giannino. E abbiamo con noi Luca Iezzi, un giornalista di Repubblica, autore di un libro che a me è piaciuto moltissimo, che si intitola Energia nucleare, sì grazie. Se posso dire, presentandolo e ringraziando Luca Iezzi per essere con noi, avviso tutti voi in ascolto, comunque la pensiate, di non farvi trarre in inganno dal titolo. Il titolo, detta così, sembra il libro di un nuclearista 100% pregiudizialmente ideologo della cosa. Al contrario, il libro di Luca ha questo titolo per farlo vendere più, ma in realtà è è uno sviluppo di argomenti e di confronti di tutte le tesi in campo, in cui vengono bilanciate le diverse componenti. Mi sembra molto equilibrata la sua visione e non è affatto un manifesto unilateralista, al contrario è un tentativo, secondo me, molto onesto ed equilibrato di pesare i diversi punti che concorrono alle scelte un po' controverse del nostro paese. Buongiorno Iezzi. Buongiorno e grazie dei complimenti. No, non sono complimenti, il libro l'ho letto e siccome sono poche le cose che mi convincono su questo argomento è il caso che io lo dica. Allora, non so se vende di più se sembra nuclearista o non nuclearista. Ecco, questo lo vedremo. Io mi auguro, conoscendo l'Italia, dovrei dire che vende di più se sembra antinuclearista. Però insomma il problema è che siccome l'Italia ha rideciso, vedremo se riuscirà veramente a inoltrarsi su questa strada. Però devo ammettere, ho trovato molto comprensibile anche in una diretta di lavoro, pur essendo tecnicamente inappuntabile, ma contemporaneamente equilibrato, dare conto di tutte le voci di spesa, degli investimenti, il ritorno degli investimenti. Allora cominciamo dalla questione da cui siamo partiti, dottor De Falco. Ma se uno sta ai provvedimenti approvati, i siti vanno ancora individuati, i giornali dicono che c'è una lista già individuati. Come stanno le cose dal vostro punto di vista? Beh, stanno esattamente come diceva lei all'inizio, qui ci troviamo di fronte a un'informazione che non informa. Evidentemente proprio lo scopo della società di cui io sono amministratore è quella di redigere una scala di siti possibili, di fare quindi un esame tecnico dei siti sulla base dei criteri che sono da emettere ancora dal Parlamento, che poi saranno regolati dall'Agenzia della Sicurezza. Quindi evidentemente in assenza di un quadro certo tecnico informativo per noi è assolutamente impossibile definire oggi i siti. Quindi chi dice che abbiamo già deciso i siti e ci dà delle dosi di divinazione che effettivamente non ci appartengono, sarebbe su un discorso così importante, un investimento di questa dimensione, un atteggiamento assolutamente irresponsabile. Io faccio poi notare che in realtà chi ha letto bene gli articoli di ieri trova che i siti di questa lista sono praticamente quelli che già dalla scorsa estate si trovavano citati in un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Della Setta del PD, che è rimasta senza risposta, la quale faceva appunto la lista di questi 10 possibili siti, nei quali si aggiungono a quelli di alcune centrali dismesse nel frattempo, cioè Trenovercellese in Piemonte, Caorso in Emilia Romagna, una lista di nuove individuazioni tipo Monfalcone in Friuli, Chioggia in Veneto, Montalto di Castro, anch'esso mai realizzato ma doveva essere un sito nucleare, Oristano in Sardegna, Termoli in Molise, Scanzano Ionico in Basilicata. Scanzano Ionico, lo ricordo chi ci ascolta, sede di una vicenda terribile che dovrebbe molto metterci in allarme, visto che lì doveva andarci un sito di stoccaggio di residui e tutti ricordano quello che è successo. Poi ancora Termini Imperese, Palma in Sicilia, e si era parlato anche di Ostuni in Puglia. Ora Iezzi, la legge direbbe che dobbiamo aspettare, ma il criterio con cui sono individuate, con cui saranno individuati questi nuovi siti, ne dovrebbe già scartare alcuni di essi, perché se noi pensiamo alle tecnologie, anche qua bisogna aspettare la scelta del tipo di tecnologie che verranno autorizzate dalla politica in Italia, non dai privati. Ma detto questo, alcuni di questi vecchi sedi forse dovrebbero essere un po' svantaggiate, perché pensare a quelle che sono lontano dal mare per i reattori di terza generazione mi sembra che dovrebbe escluderli, o no? Sì, perché i reattori di terza generazione hanno tra le caratteristiche nuove quella di essere mediamente più grandi di quelli precedenti e quindi hanno bisogno di una quantità di acqua abbastanza più alta rispetto alle tecnologie precedenti per il raffreddamento. I fiumi, grandi fiumi, potrebbero andare bene. In Italia di grandi fiumi non ne abbiamo tanti, ma tutte le nuove centrali di terza generazione in giro per il mondo in questo momento sono costruite con uno sbocco sul mare, quindi probabilmente anche in Italia si dovrebbe pensare a qualcosa di più vicino al mare che non sugli Appennini, per dire. Ce ne sono alcune nella lista che sono anche in situazioni montagnose. Ecco, certamente, anche a me questo sembra realistico, però vedremo. Io ricordo a tutti che naturalmente i criteri di fondo sono innanzitutto di sicurezza sismica, di sicurezza idrogeologica rispetto ai terreni. Poi c'è questa componente della prossimità a fonti d'acqua rispetto alle esigenze di raffreddamento che sono molto importanti. Immaginate che un impianto di 1.6 gigawatt elettrici deve in qualche modo smaltire 3.2 gigawatt termici, cioè deve disporre di un corpo idrico di una capacità molto adeguata a riceverli, e quindi questo è il ragionamento anche della prossimità verso il mare. Dottor De Falco, al di là del fatto che ovviamente lei rappresenta una joint venture in cui la scelta della tecnologia individuata c'è ancora, ma c'è già, voglio dire, ma il dibattito intorno a quali tipi di tecnologia accogliere nel nostro paese è una scelta che sarà politica, ma tenendo conto di quali criteri rispetto alla realtà degli impianti che sono in via di realizzazione oggi nel mondo? Penso che è appunto una scelta politica che lasciamo fare quindi alla classe politica. Sicuramente guarderanno le tecnologie che in questo momento hanno ottenuto, stanno ottenendo le licenze da parte di autorità di sicurezza di paesi con i quali noi abbiamo rapporti bilaterali e che stimiamo dal punto di vista della capacità tecnologica. Quindi sicuramente, come anche compare oggi sul giornale, anche la tecnologia americana avrà una sua accettazione per la P1000 che è di progetto Westinghouse. Ovviamente la scelta che ha fatto l'Enel è una scelta ormai definita su una tecnologia a revà del reattore pressurizzato europeo, ma è anche il reattore che in questo momento è in fase di più avanzata costruzione e sottoposto a una serissima analisi progettuale di licensing da parte di 4 autorità di sicurezza, dalla Finlandia alla Francia alla Gran Bretagna, oltre all'autorità cinese, e anche gli Stati Uniti ormai hanno in itinere, quindi sarà un progetto che sicuramente beneficerà di esperienze estremamente valide anche dal sotto il profilo del licensing, quindi molto positivo. Iezzi, mi appello al fatto che lei è di Repubblica, perché c'è una parte dei miei ascoltatori che mi travolgono di fronte al fatto che avrei detto grandi stupidaggini, perché oggi il nucleare rappresenterebbe solo il 2% della produzione mondiale di energia elettrica, mentre le rinnovabili sarebbero già al 20%, e che faccio propaganda. Vogliamo ricordare a chi è in ascolto quanto pesa oggi il nucleare nel mondo, certo, quanto pesano le rinnovabili? Allora, il nucleare vale il 20% dell'offerta elettrica mondiale. Aspettate chi è in ascolto, 20%, lavora a Repubblica, quindi il perfido giardino. Prego, vada avanti, Iezzi. Che con molte differenze, nel senso che noi siamo il più grande consumatore al mondo senza nucleare, mentre c'è la Francia, la nostra vicina, che è la più grande economia al mondo consumatrice nucleare, con oltre il 70% dell'offerta elettrica prodotta da nucleare. Diciamo che mediamente la quota del 20% o qualcosa in più è tipica di tutti i paesi industrializzati, dalla Svizzera alla Finlandia fino all'insospettabile appunto Germania. E nella realizzazione, sempre che ci riuscissimo, del 20-20-20 per l'Italia, a prescindere da quanto può costare per l'Italia, anche su questo la forbice delle stime è molto ampia, c'è chi ha stimato 1.2 punti di PIL, c'è chi dice la metà, ma a prescindere da questo, mettiamolo come un giusto costo su alcuni segmenti dell'industria italiana, in questo il nucleare e le rinnovabili come possono diversamente contribuire? Allora, penso che questo sia uno dei grossi errori che fanno entrambi gli schieramenti, sia i pro-nuclearisti che gli anti-nuclearisti, cioè mettere in competizione le rinnovabili e il nucleare, per motivi tecnici ma anche per motivi economici. Le due cose non si escludono. Dal punto di vista degli impegni europei, le rinnovabili hanno un obiettivo molto netto, quello del 20% dell'energia primaria entro il 2020, e di lì da quello non si può sgarrare, nel senso che nessuna realizzazione nucleare ci metterà al riparo da un eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo. Per contro, il nucleare, che peraltro in Italia dovrebbe arrivare entro il 2020, cioè dopo il 2020, secondo le stime e le stime più sagge, non dovrebbe comunque aiutare in questo programma. Di contro, per motivi tecnici, il nucleare, proprio perché ha una produzione continua, sarebbe l'ideale partner per le rinnovabili, che sappiamo producono una grande quantità di energia, ma soltanto quando le fonti lo permettono, cioè quando il sole e quando il vento permettono di produrre energia. Partner delle rinnovabili. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando della ripresa nucleare in Italia, del primo, un po' preoccupante, riaffacciarsi all'allarmismo nella comunicazione pubblica, a cominciare dalla individuazione dei siti. Diceva Luca Iezzi, partner delle rinnovabili, non nemico delle rinnovabili, il nucleare. De Falco, da questo punto di vista, quanto lei crede che questo argomento possa passare nella comunicazione pubblica italiana? Ma io condivido assolutamente con Luca Iezzi il concetto che siano partner. Non condivido il fatto che i nuclearisti siano contro le fonti rinnovabili. In realtà è stata proprio una dicotomia, secondo me, creata d'arte per nuocere al nucleare. Nucleare e rinnovabili sono le fonti essenziali oggi disponibili per poter fare energia senza produrre CO2. Quindi sono assolutamente sinergiche. attengono anche a modi di produzione che sono complementari, una energia di base, l'altra ovviamente energia che deve tener conto delle situazioni ambientali. Io ritengo che da un punto di vista proprio di obiettivi ambientali, quello che dovrebbe essere per noi una priorità assoluta è quella di spostare per esempio l'inquinamento dalla parte di biosfera che dà più danno alla salute, che è sicuramente l'insediamento urbano. Allora il nucleare può consentire di spostare consumi verso l'elettricità, a cominciare dai trasporti, quindi noi pensiamo all'auto elettrica, ma pensiamo anche a tutti gli altri trasporti che si possono fare per via elettrica. Sicuramente i riscaldamenti e altre forme di consumi elettrici, così come il risparmio e l'efficienza energetica, possono contribuire ad allontanare l'inquinamento che oggi ci autoproduciamo proprio lì dove viviamo. E l'Enel forse anche, diciamo, nelle sue strategie industriali è la prova di questo, perché i più grandi investimenti che sta facendo l'azienda sono in questo momento sul nucleare e sulle rinnovabili. Notizia proprio di oggi sul quotidiano del 24 ore, c'è il progetto che a Napoli noi vogliamo fare nell'interporto, con una centrale solare da 27 megawatt, che è sicuramente una delle più importanti al mondo. Quindi assolutamente noi condividiamo questa tesi della sinergia e l'abbiamo sposata anche sotto il profilo delle strategie industriali. Io ricordo a chi è in ascolto che gli obiettivi la scorsa estate, quando era ancora si stava compiendo l'esame della legge sviluppo, nei quali poi sono compresi i tre articoli in attuazione dei quali riparte, a cominciare dal 2010, il nucleare, gli obiettivi spiegati dal ministro Scajola di un mix più equilibrato e realistico e meno dipendente dall'estero, in cui c'è anche il nucleare dentro, sono più o meno così: arrivare a realizzare un mix in cui il 25% di elettricità sia dalle rinnovabili, il 25% dal nucleare, il restante 50% dalle fonti fossili. Caro Stagnaro, che ci ha raggiunto telefonicamente, direttore di Energia e Ambiente dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Stagnaro. Buongiorno. Chiedo a Stagnaro, questo mix è da considerare realisticamente raggiungibile in un numero di anni non troppo lungo, secondo lei? Ma io sono un po' scettico sull'idea di poter definire a priori i mix, che dipendono poi in realtà dalle scelte più della singola azienda in un regime liberalizzato. Detto questo, a prescindere dai numeri che si mettono dentro, è chiaro che il mix di produzione italiano è sbilanciato, nel senso che è senza pari nel mondo. Non esiste un paese, tranne forse quelli che producono, sono riproduttori di gas naturale, che usino così tanto il metano per generare elettricità, e questo è frutto in parte di scelte individuali delle imprese, ma soprattutto è conseguenza del fatto che c'è stata una fase storica negli ultimi 15-20 anni in cui se volevi fare centrali dovevi per forza farle a gas, e quindi è significativo che oggi la richiesta del nucleare, ma anche del carbone, anche delle rinnovabili, nasca proprio dalle compagnie che si occupano di produrre energia elettrica, perché sentono di avere un bisogno di creare i loro mix individuali. Ecco, io devo dire a Stagnaro che, siccome c'è una qualità dell'audio, credo che sia su un treno, non troppo buona, ohimè, credo che dovremmo fare a meno, e me ne dispiace con lui, e mi dispiace per gli ascoltatori del suo punto di vista, ma non perché, come avete sentito, sia scettico, perché mi interessava tenere in trasmissione qualcuno che richiami al fatto che i mix bisogna poi farli scegliere anche alle imprese e ai mercati, non tanto alla politica, però prendiamo atto del fatto che questa è la scelta fatta dal legislatore italiano. Alcune telefonate. Cominciamo con Osvaldo dalla provincia di Milano. Prego Osvaldo. Buongiorno Giannino, buongiorno ai suoi ospiti, buongiorno agli ascoltatori. Io sono un piccolissimo imprenditore e quindi so cosa significa risparmio energetico e costi dell'energia. In merito alle centrali nucleari ho visto veramente che c'è moltissima disinformazione, moltissima ignoranza, anche e soprattutto da parte dei giornalisti. E adesso appunto con questo discorso dei siti nucleari in anteprima è evidente che c'è una forma di terrorismo larvata, ma è evidente che c'è. A maggior ragione mi sembra che sia stata addirittura messa Chioggia come sito, quando tutti sanno che Chioggia soffre di subsidienza, quindi voglio proprio vedere come si può fare una centrale lì, già è una follia. Il discorso è anche un altro. Bisogna far capire agli italiani che, come già stato detto, noi una gran parte della nostra energia a caro prezzo la compriamo dall'estero ed è nucleare, quindi dalla Francia, dalla Svizzera, ma non solo. Primo. Secondo, una cosa che potrebbe magari smuovere o fare capire meglio a chi dovrà poi, virgolette, subire la centrale sul suo territorio e fargli per esempio degli sconti sull'energia. Cioè questa è una cosa, ma soprattutto bisogna fare dell'informazione e non della disinformazione, come si sta facendo adesso sui giornali. Una cosa per esempio che mi manda in bestia è quando vedo che si parla di clima, che si parla di CO2, che si parla di fumi immessi nell'atmosfera e poi dopo fanno vedere delle torri di raffreddamento, quegli aggeggi, quegli enormi tronchi di cono che buttano fuori quello che sembra fumo bianco, non è altro che vapore acqua, esattamente. Questa è ignoranza oppure malafede o tutte e due le cose. Ma credo più la prima della seconda, che è ancora peggio. Grazie Osvaldo. Poi abbiamo Ilario da Milano. Prego Ilario. Sì, buongiorno a tutti e grazie. La domanda che mi faccio io è se è vero che noi siamo obbligati perché non abbiamo risorse, se è vero che la importiamo a caro prezzo, c'è qualcuno che mi dice che risparmieremo una volta messe le centrali come utenti finali, oppure la pagheremo sempre quanto la paghiamo adesso e l'utente finale non avrà beneficio? Perché io su quello direi di sì o no a una centrale nucleare. Se risparmio, chiarissimo Ilario, lei chiede ma il costo finale se ci facciamo tutto questo nucleare si alza, si abbassa o resta uguale? Benissimo. Roberto da Roma, prego Roberto. Buongiorno a tutti. Ci dica. Io sono un fisico, quindi non ho un concetto nucleare, chiaramente si sarebbe anche favorevole. Il problema è che sono d'accordo con chi ha creduto, il problema è che innanzitutto aia, si sente una, praticamente non si riesce a capire cosa dice, abbiamo capito solo che è un fisico e poi o proviamo di nuovo a chiamarla oppure purtroppo allora proviamo ogni tanto a rispondere a queste alla domanda sul costo. Iezzi, lei che dice? Lei fa addirittura delle tavole comparative nel suo libro che mi sembrano molto utili al lettore, che io consiglio di comprarlo, perché mette dentro tutte le diverse voci che bisogna tenere presente se uno vuole arrivare a rispondere alla domanda terribile, ma poi il costo finale qual è? Ma se dovesse rispondere all'ascoltatore? Il costo finale del kilowattora nel nucleare è mediamente più basso, ancor più se si considera quello che dovremo pagare per la energia carbonica prodotta. Il costo finale per l'utente potrebbe non essere più basso, ovviamente, perché se nel giro di 10 anni riusciamo a mettere insieme 2 o 4 reattori significa il 5% del fabbisogno nazionale, e il 5% del fabbisogno nazionale non fa il prezzo che continuerebbe a essere deciso dal gas, quindi come costo finale probabilmente gli effetti non ci saranno, a meno che appunto le aziende che producono energia da centrali nucleari decidessero, anche per spingere, per fare un po' di buona pubblicità a questa fonte, di magari fare dei contratti specifici come si fa per l'energia verde: io ti vendo energia prodotta dal nucleare e quindi ti permetto di venderla a un prezzo più basso. Diverso il discorso per i siti che dovessero ospitare le centrali, in quel caso anche la legge in qualche modo lascia prefigurare che sia possibile per quelle popolazioni praticare un prezzo più basso. Ora, io ricordo a chi ci ascolta più o meno che cos'è oggi il parco elettrico e quanto produce. Io prendo dati Terna, non lo dice Giannino. Nel 2008 il parco elettrico italiano comprendeva circa 70 gigawatt termoelettrici, 21,5 idroelettrici, poco meno di 4 gigawatt rinnovabili, ovviamente zero nucleari. Che cosa hanno prodotto queste diverse fonti? I 70 gigawatt termoelettrici hanno prodotto 249 terawattora, i 21,5 gigawatt idroelettrici hanno prodotto 46 terawattora e i 4 gigawatt rinnovabili hanno prodotto solo 5 terawattora. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che naturalmente il parco termoelettrico lavora molto di più nel corso dell'anno di quello idroelettrico, cioè lavora in media 3.500 ore, quello idroelettrico lavora 2.160 ore, quello rinnovabile 1.273 ore. Tutto questo dai diversi contributi per fonte, per così dire, produttive, tutto questo va tenuto conto in quello che diceva Iezzi su chi poi fa il prezzo marginale sul mercato. Quindi bisogna immaginare, secondo me, che chi lo fa a meno emissioni debba contribuire a differenza del contributo, che comunque il contributo marginale del nucleare è più elevato delle altre fonti. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando del no allarmismo in vista della ripresa del nucleare. Allora, il dottor De Falco, una risposta anche da parte sua su il costo comparato per fonti diverse dell'energia elettrica prodotta per nucleare rispetto alle altre, se questo sarà presumibilmente anche un costo più basso nelle tasche del consumatore. Mi permetto di aggiungere un tema che non abbiamo ancora trattato, cioè quello dei siti per lo stoccaggio del materiale fissile che risulta alla luce dell'esperienza di Scanzano Ionico. Prego De Falco. Dunque, sul costo comparato sono abbastanza d'accordo con quello che dice Luca Iezzi. Effettivamente il costo di produzione del nucleare in questo momento è il più competitivo di tutte le altre fonti possibili. Se questo si riduca poi la bolletta al consumatore, noi riteniamo di sì, perché nel mercato queste cose non possono non avere un impatto, anche se dipende molto poi dalle regole del gioco per fissare il prezzo all'utenza. Però sappiamo che non è solo l'utenza della bolletta della famiglia che conta, è anche il costo dell'energia alla media e piccola impresa, che rappresenta la spina dorsale del sistema industriale italiano, e lì ci sono contratti bilaterali, quindi si apre tutto un fronte che sicuramente senza il nucleare non ci sarebbe. Una cosa invece molto importante che ritengo vada sottolineata è che comunque noi avremo un mix paragonabile a quello degli altri paesi europei, quindi come sistema Italia avremo una vulnerabilità inferiore a quella che abbiamo oggi. Noi, essendo, come lei stesso notava prima, fortemente sbilanciati sul gas, noi abbiamo un rischio paese dal punto di vista del costo dell'energia che è sproporzionato rispetto a quello degli altri. Quindi questa è la prima osservazione che secondo me andrebbe fatta dal punto di vista della prospettiva strategica di riequilibrare anche il rischio energetico per il paese. E quanto ai rifiuti che molti degli ascoltatori chiedono, perché dicono: ma come faremo in Italia visto che non riusciamo mai a metterci d'accordo su nulla? Dunque, i rifiuti sono paradossalmente una forse delle ragioni a favore del nucleare, quindi vorrei sovvertire un po' il senso comune. Perché? Perché è la quantità veramente modesta di rifiuti prodotti dalle centrali nucleari. Se posso dare un termine quantitativo, i rifiuti ad alta attività, perché poi è di quelli che si parla, di quelli che si ha paura, sono costituiti essenzialmente dagli elementi di combustibile irraggiati che vengono scaricati dal reattore. Bene, il nocciolo di un reattore tipo l'EPR 1600 MW occupa uno spazio di 12 metri quadri e dura 4 anni e mezzo con un ciclo poi di sostituzione periodica dei combustibili. Quindi tutto il combustibile necessario per il funzionamento di 50 anni dell'impianto EPR sta in 120 metri quadri, che è grosso modo la dimensione, per avere una dimensione ottica, di una corsia di una piscina olimpica, per capire. Ecco, quindi il combustibile irraggiato viene scaricato in una piscina, viene lasciato lì a raffreddare, dopodiché periodi di decenni può essere trasferito in un deposito finale. Il deposito finale come è individuato oggi? Ormai ci sono già dei progetti in corso di realizzazione in Finlandia, c'è un progetto analogo in Svezia, sono depositi geologici sotterranei ad alta profondità, 500-600 metri almeno sotto la superficie, nel quale queste scorie, questo combustibile incapsulato in matrici che lo proteggono dalla contaminazione verso l'ambiente, vengono depositati e in sistemi ingegnerizzati lasciati lì per tempi geologicamente compatibili. Quindi è il piccolo volume insieme alla capacità di gestire depositi geologici di stabilità studiata e ormai acclarata nel tempo, che consente una gestione sicura di rifiuti che negli altri processi, ahimè, vengono viceversa semplicemente liberati all'atmosfera. Non è un caso che uno dei progetti più interessanti nel campo del fossile è proprio quello che ci porta a dire: cerchiamo di sequestrare l'anidride carbonica che esce dai fumi per riporla, anche in questo caso, in un deposito protetto dove rimane non a contatto con l'atmosfera. Questo secondo me è il processo virtuoso che si dovrebbe fare in tutta una serie di tecnologie industriali, che è quello di sottrarre i contaminanti dal contatto della biosfera. Anche se non so come la pensa lei, ma temo che faremo più rapidamente in Italia a costruire persino una centrale nucleare che impianti di stoccaggio del CO2 per evitare l'emissione. Questa è la mia impressione. Iezzi, un altro punto che traggo dagli SMS che ci stanno bombardando in questi minuti. Molti ascoltatori chiedono: ma perché l'uranio ce lo regalano? E perché l'uranio a quel punto non finisce entro pochi decenni? Invito tutti a riflettere su quante volte abbiamo letto negli ultimi 30 anni date già alle nostre spalle in cui il petrolio era, non dico in via di esaurimento, ma aveva toccato il peak point, quello dal quale non poteva che scendere la produzione. Iezzi, che dice lei su questo? Allora, sì, l'uranio finirà prima o poi. Non abbiamo questo rischio, perché la quantità di uranio utilizzata in questo momento, quella direttamente tirata via dalle miniere, è soltanto il 60% dell'uranio utilizzato nelle centrali, perché vengono utilizzati i materiali fissili che un tempo, per fortuna, veniva usato per le testate nucleari. Quindi diciamo che abbiamo anche un pregresso vantaggioso da questo punto di vista, perché tra l'altro l'uranio utilizzato per le testate nucleari è molto più ricco, molto più pregiato rispetto a quello che serve per le centrali, per cui si può in qualche modo diluire. Diciamo che mediamente anche le stime più terribili dicono che l'uranio durerà al 50-60 anni, quindi questo non dobbiamo preoccuparci di questo. Inoltre, il prezzo dell'uranio influisce molto poco sul costo del kilowattora, soltanto dal 5-8%, mentre sappiamo che il costo del carburante, del gas e del petrolio influisce quasi per i 2/3 sul vero costo del kilowattora. Quindi anche un aumento del prezzo dell'uranio dovuto a una scarsità, un aumento della domanda, avrebbe un effetto molto relativamente molto piccolo rispetto a quello che ha il gas e il petrolio. E infine l'ultima cosa, la tecnologia sta lavorando per continuare a utilizzare parte delle scorie che vengono prodotte dalle centrali nucleari attuali come combustibile per le scorie successive, il famoso riprocessamento. Le centrali che usa la Francia, le centrali che probabilmente userà l'Enel, l'EPR, possono utilizzare un tipo di combustibile che si chiama MOX, che è appunto un misto di uranio nuovo e plutonio vecchio. Quindi diciamo è una forma di riciclo che allunga ulteriormente la vita di questo carburante. Poi naturalmente tutto il problema delle scorie, a cui mi voglio riallacciare per dire che è anche un po' problema dell'allarmismo che qui è stato denunciato. Cioè, se c'è spazio per l'allarmismo, se i verdi possono raccontare che ci sono liste, che non sappiamo cosa fare delle vecchie centrali e delle vecchie scorie che le lasciamo in giro per l'Italia, è probabilmente un po' vero, perché finora la legge, che peraltro è stata utilizzata, ci ha messo circa un anno e mezzo per essere approvata. Tutte le decisioni importanti che doveva prendere il governo su questo tema sono saltate. È vero, e del resto su questo l'esperienza di Scanzano, ripeto, va riposta al centro di tutte le classi dirigenti per evitare quegli errori. Allora, io ringrazio Luca Iezzi e Francesco De Falco, torneremo sul nucleare. Ringrazio anche tutti gli ascoltatori che, leggo qui, mi hanno dato dello stronzo, dell'animale, del propagandista. Io non sono niente di tutto questo, ma ero certo che, tornando sul tema nucleare, questo è il tipo di reazione. Secondo me o ci abituiamo a sapere leggere i numeri e anche un pochino a parlarne, perché tutti dicono che è meglio che io stia zitto e faccia solo domande, finché sarò qua, non so per quanto, abituatevi. Numeri e soprattutto rispetto per tutti. Grazie in regia Paolo Corleoni, in redazione Alessandro Marcuturi, la linea Giornale Radio, a domani. Radio 24, la passione si sente.